tanti e vestiti d'oro e la mer, ma credo li comprassarate perché i soldi per i taxi vole da me.